Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Eh sì, abemus lo scudo salva spread. Buonasera da Sebastiano Barisoni, ultima puntata della settimana di Focus Economia. Bah, diciamola tutta, è andata meglio di quanto uno non si potesse immaginare, viste le dichiarazioni che arrivavano anche e soprattutto da Angela Merkel alla vigilia di questo vertice che va verso la conclusione. E non lo dico io, le campane con cui abbiamo iniziato il programma sono le campane che suonano oggi su tutte le borse. Milano recupera il 5,80%, Parigi il 4,5%, Francoforte il 4,13%, Londra più 1,90%, l'euro in rafforzamento 1,26,83%, balzo vero e proprio dei titoli bancari, Unicredit più 11,12%, Banco Popolare più 10,36%, Banca Popolare Emilia Romagna più 9,90%, come la Popolare di Milano il 9,5%. Lo guadagna Intesa San Paolo, l'8,5% Mediolanum, l'8% Atlantia, il 7,80% Mediobanca, il 7,40% UbiBanca, Prismian più 7,20%, Azimut più 6,80%, Finmeccanica più 6,5% come Fiat, Industrial, Pirelli più 6,5% anch'essa, Saipem più 6,26%. Era tanto che non si vedeva una giornata del genere in borsa e quindi io le campane le faccio risentire anche per lanciare le nostre notizie in breve. È chiaro che oggi il programma sarà quasi interamente dedicato al vertice europeo. Cercheremo di capire, prima da un punto di vista della cronaca e quindi dei fatti, poi anche dell'analisi, che cosa sia emerso. Il patto, diciamo, per uno scudo salva spread è nelle cose. Ricordo però che ci sarà anche un vertice Eurogruppo il prossimo 9 luglio in cui andranno implementate queste decisioni. Resta comunque la cornice, una cornice molto importante, perché c'è anche via libera al patto per la crescita e l'occupazione, l'accelerazione sull'unione bancaria, l'intesa appunto sui meccanismi antispread, l'accordo sugli aiuti diretti alle banche spagnole, ma tra l'altro il patto per la crescita e l'occupazione, per stima dello stesso Mario Monti, vale 120 miliardi di euro. Avremo anche oggi, oltre a una cronaca lunghissima del vertice europeo, qualche notizia sulla chi la crisi non la sente, perché mentre appunto Mario Monti va a presentare un'Italia che sta facendo i compiti a casa, riforma del mercato del lavoro, piaccia o non piaccia, non è questo il punto, riforma delle pensioni, speriamo anche questa spending review porti, adesso sembra 10 miliardi di risparmi sulla spesa pubblica, aumento della tassazione, cioè, mentre lui cerca di portare un'Italia presentabile e non solo calcisticamente, mi dispiace per la Germania ieri chiaramente, c'è chi in Italia continua a farsi bellamente i fatti suoi, non mi riferisco, ci sono molti messaggi alle frasi del capogruppo del PDL Fabrizio Cicchitto, che ha detto noi ad agosto dobbiamo andare in ferie, oppure crisi, già ricordo che l'anno scorso vi fu, se ben ricordate, vi fu un problema nel rientro dalle festività perché c'era il viaggio in terra, il pellegrinaggio in Terra Santa la prima settimana di settembre con la terza o la quarta manovra in piedi, ma ci sono anche altre notizie che, voglio dire, ci lasciano molto riflettere sui passi che deve ancora fare il paese, alcune parti del paese, per capire quanto tutti devono stringere la cinghia e non solo i dipendenti, i lavoratori, le imprese, i pensionati e quant'altro. Viva Monti e Prandelli. Beh, possiamo dire viva i vari Mario. Mario Monti, Mario Draghi e anche Mario Balotelli. A questo punto lo si può dire, no? Allora, dai, l'Italia ha vinto 2-0. La Germania ha ceduto sul 2-1. Oh, cosa ho detto? Scusatemi. 2-1. La Germania ha ceduto sul fondo, non sul fondo salva banche, ma sui meccanismi antispread e anche sul pacchetto occupazione. La borsa fa più 5,70. Allora, notizie in breve con le campane. Vai. Allora, volete sapere? No, come ho già spiegato, non penso che sia così importante, però ve lo dico. In questi mesi anche a Radio 24 stiamo recuperando molti giorni di ferie arretrate per un accordo con l'azienda, quindi mancherò ogni tanto, mancherò per esempio tutta la prossima settimana, ma ci sono dei bravissimi conduttori che conducono forse anche meglio di me questo programma, per cui il programma resta, Focus Economia resterà tutta l'estate come tutti gli anni, da 11 anni a questa parte, agosto, ferragosto incluso, per cui non vi lasceremo, ci mancherebbe da questo punto di vista, visto che c'è qualcuno preoccupato perché ogni tanto non ci sono. E invece per quello che riguarda un messaggio al 349-238-6666 c'è chi scrive: Angela Merkel ha cambiato idea dopo la partita. Sì, non so, prendiamola come una battuta, voilà. Intanto della borsa abbiamo già detto chiaramente, lo spread oggi è stato uno spread ballerino, cioè la differenza tra quanto costa a noi rispetto alla Germania indebitarsi è andato prima a 510 punti, a 410 punti, livello più basso da un mese a questa parte, poi è risalito a 450, adesso è ridisceso a 425 punti. E il rendimento dei nostri BTP a 10 anni scende sotto il 6%, è ancora altissimo, è 425 punti, però meglio che 460. Quello spagnolo è sceso a 484 punti. Parleremo anche però delle banche d'affari che continuano a fare quello che vogliono. Non solo JP Morgan, il cui buco per le operazioni con i derivati, cioè con quello che ha creato la grande bolla di carta che poi è esplosa nel 2007-2008, non è più di 2 miliardi, ma potrebbe raggiungere i 9 miliardi. Complimenti, perché proprio il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Continuate così, banche d'affari, anche perché in America ve lo fanno fare. Aspettiamo con ansia, si fa per dire, la legge, è vero, Barack Obama e Timothy Geithner, che deve separare le banche d'affari dalle banche che raccolgono risparmi. Dopo tutto quello che è successo, ancora la potenza di fuoco delle lobby di Wall Street blocca qualunque legge in America. Nel frattempo anche la Gran Bretagna, cioè il mondo anglosassone, ha tante lezioni da darci, però ogni tanto dovrebbe fare anche un po' di mea culpa per la spregiudicatezza con cui lascia lavorare queste lobby della finanza. Alta no, finanza bassa anche delle volte, visti i risultati. Allora, Royal Bank of Scotland starebbe per essere multata per circa 150 milioni di sterline per manipolazione dei mercati. La banca, che in questo momento è stata salvata, cioè in questo momento 3 anni fa salvata dallo Stato britannico, quindi sono i contribuenti britannici che hanno l'82% di Royal Bank of Scotland, praticamente ha ammesso di aver anche lei truccato i tassi di interesse come Barclays, ma di averlo fatto in maniera meno grave e più isolata. Già ricordo che Barclays è stata multata per 290 milioni di euro, di sterline, per lo stesso motivo, cioè per avere truccato i tassi di interesse. Il numero uno, Bob Diamond, ha dichiarato che non mi dimetterò, non ero al corrente di quello che facevano i miei dipendenti. A Diamond, già questa è una buona motivo per dimettersi. Se sei capo, vieni pagato milioni di euro all'anno di sterline, poco cambia, e non sai quello che fanno i tuoi dipendenti, che ci stai a fare? Vattene, no? E come sempre l'accusa, Jérôme Kerviel insegna, l'accusa viene data a un piccolo numero di dipendenti che avevano la capacità di fare questa operazione. L'ho detto anche Diamond dinanzi alla Camera dei Comuni, c'era un piccolo numero di dipendenti che hanno agito in maniera inappropriata. Ma David Cameron, il premier britannico a Bruxelles, ha detto: è necessario un cambio di cultura nel settore bancario. La gente in Gran Bretagna è arrabbiata con le banche, lo sono anch'io. Chi viola le regole deve affrontare le conseguenze. E poi il governatore della Banca d'Inghilterra, Mervyn King, ha detto: deve cambiare la leadership e anche la cultura nell'industria finanziaria. Magari se vi fate una bella legge ad hoc, li aiutate a cambiare testa e abitudini. Attenzione, c'è chi sta scrivendo: non illudetevi, tornerà tutto a ballare. Può essere, nessuno si sta illudendo che con lo spread a 425 la situazione sia risolta. Però, cioè, non tiriamoci sempre, no, la clava nelle parti intime, perché insomma, oggi è una giornata con i titoli bancari stanno recuperando. Unicredit torna a 3 euro per azione, più 14%, complimenti a chi se l'è comprata in questi giorni. Il Banco Popolare fa più 11, Intesa più 10, Popolare Emilia Romagna più 10, Popolare Milano più 9,20. Dai, insomma, una giornata del genere non si vedeva da tempo. Poi, per carità, nulla è risolto, se ci saranno nuovi intoppi i mercati torneranno a andare giù, ma la borsa guadagna il 6% in questo momento. Notizie in breve dall'Italia, i dettagli sul gettito IMU dovrebbero essere diffusi la prossima settimana, ma secondo i primi, le prime stime sarebbero stati raccolti 9 miliardi, un dato in linea con i 9 miliardi e 7 preventivati. Ancora, per quello che riguarda l'Italia, c'è l'inchiesta che continua della Procura di Trani su Standard & Poor's. Pensate che il giorno in cui Standard & Poor's, l'agenzia di rating, una delle tre che danno i voti a debiti di paesi e privati, il giorno in cui ha declassato l'Italia, il 13 gennaio 2012, vi ricorderete, no? Il governo Monti che aveva fatto la riforma delle pensioni, arriva Standard & Poor's e declassa. Polemica non finire. Standard & Poor's declassò l'Italia esprimendo anche giudizi negativi sulle banche. Però pensate che strano, il responsabile per le banche di Standard & Poor's, Renato Panicchi, ha inviato nello stesso giorno una mail agli autori di questo report contestando loro di aver espresso giudizi contrari alla realtà sul sistema bancario, e la mail è stata sequestrata dai PM della Procura di Trani, che sta indagando contro le agenzie di rating, tra cui anche Standard & Poor's. Strano, eh? Il responsabile italiano delle banche italiane, Standard & Poor's, contesta via mail i giudizi espressi dalla casa madre? Magari no. No, non si può pensare male, non pensiamo male. Hanno curato gli effetti, non la causa. Ho capito, nessuno sta dicendo che è finita la nottata, ci vorranno altri 2-3 anni per tornare, secondo le stime che vediamo, a banche di nuovo operative come prima e non in sofferenza. Però una boccata d'ossigeno possiamo dire che c'è stata. E nel frattempo, dicevo, però, c'è chi non si rende conto di quanto debba cambiare la testa. Non è l'onorevole Cicchito, di chi dice attenzione se non ci fate fare le vacanze. Poi gli ha risposto Fini: ci sono molti decreti da approvare, si lavorerà anche di notte in Parlamento. Ma lo svago controverso, cioè, secondo me resta quella dell'allora neoministro della giustizia Nitto Palma. Ricorderete, dopo poche ore dopo il giuramento aveva annunciato la partenza per la Polinesia con il biglietto 1000 miglia prenotato fin da gennaio, poi ha dovuto rinunciare. Questo per quello che riguarda le ferie dei politici. Però insomma, io devo tornare, lo faccio a malincuore, lo dico veramente, devo tornare sulla regione Sicilia, ma anche sui costi dei vigili urbani in giro per l'Italia. E allora, se mi date, ma cos'è questa crisi? Perché noi il colpo non lo molliamo su questo, Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Allora, il 9 luglio vi sarà il vertice dell'Eurogruppo a Bruxelles, che dovrà rendere operative tutte le decisioni prese oggi, di cui adesso parliamo. Ma il 10 luglio, il giorno dopo, la Suprema Corte metterà, quindi mi riferisco in Italia, metterà la parola fine alla complicata battaglia legale tra la Regione Sicilia e Felice Crosta, ex super dirigente. Negli ultimi 2 anni ha percepito una pensione d'oro. Adesso io faccio un test. Ditemi, secondo voi, quanto può essere, alcuni di voi la notizia forse l'avranno già vista, quanto poteva percepire come pensione d'oro un ex dirigente della Regione Sicilia. Io vi leggo il resto della notizia. 349-238-6666 per i vostri sms. Chi azzecca quanto beccava al giorno di pensione, che vince il nostro applauso. Allora, è uno scandalo che si trascina dal 2010, è aggrappato solo a un cavillo. Nel 2006 l'ex super dirigente fu messo dal presidente di allora, Totò Cuffaro, a capo dell'agenzia per i rifiuti, con un compenso di, pensate un po', altro che Barack Obama, presidente della BCE, 460.000 euro. Del resto la gestione dei rifiuti in Sicilia è sempre stata la punta di diamante del nostro paese e dell'amministrazione Cuffaro. 460.000 euro. Crosta accettò, ma si dimise qualche mese dopo. Beh, insomma, aver lavorato qualche mese gli vale la pensione, gli vale come base pensionabile. In forza una legge che l'Assemblea regionale siciliana varò proprio alla vigilia della sua nomina, pensate che coincidenze, una legge fatta ad hoc per lui, sembrerebbe, ma sono sospetti maliziosi. La Corte dei Conti si è arrabbiata, e Crosta però spiega, Crosta è bellissimo, magari lo cerchiamo, non è un regalo, io ho lavorato per 45 anni, allora anche gli operai lavorano per, a parte che 45 anni come ha fatto a lavorare, vabbè, e quindi ho diritto alla mia pensione. Vediamo chi ha indovinato. Beh, molti hanno indovinato, sebbene sì, 1400 euro al giorno per aver lavorato qualche mese, 1400 euro al giorno, Felice Crosta, un po' di vergogna nella vita, l'applauso, vergogna. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Hai capito, no? E vergogna anche il presidente Toto Cuffaro, che mi sembra che debba vergognarsi, visto come è finito anche per molte altre cose, ma insomma, 1369 euro al giorno per la precisione, non vorrei sbagliare la cifra, 500.000 di euro all'anno, questo per aver lavorato per qualche mese, perché quel compenso fungeva da base imponibile. Praticamente la Corte dei Conti ha obbligato Crosta a restituire alla Regione Sicilia 1,5 milioni di arretrati, ma l'ex dirigente ha deciso di aggrapparsi a un dettaglio e ricorso in Cassazione, ha contestato la composizione del collegio che gli ha dimezzato l'indennità. Crosta, lavorare mai, perché voglio dire, ma di che cosa stiamo parlando? 1400 euro al giorno, no? Non li vedono la metà dei pensionati italiani al mese, ma non si vergogna quando viene in giro. Cercate Felice Crosta, se vuole ci chiami. Crosta, lei è veramente il motivo per cui i tedeschi non si fidano di noi, lei è uno dei motivi. Però ce ne sono anche altri e vorrei dare l'ultima notizia su questa crisi e poi passare a Bruxelles. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Chi ce l'ha li metta fuori circolare, miei signori? E chissà che la crisi finirà. Allora, io capisco il federalismo, capisco tutto, però com'è possibile che i vigili urbani abbiano degli stipendi che non c'entrano nulla innanzitutto col costo della vita, nulla sul tipo di difficoltà del lavoro? Scusatemi. Insomma, a Cosenza costano il 150% in più del costo standard, a Roma è in equilibrio, cioè costano come la media del costo standard, a Milano è addirittura più alto. Ma le risorse per far funzionare i vigili urbani saranno pari al costo standard, non un euro di più, questo per i trasferimenti ai comuni. Pensate che insomma, il record negativo per i servizi all'impiego, collocamento alla formazione appartiene a province anche del nord, Verbano, Cusio, Ossola. Ma gli sprechi per le spese dei comuni per i vigili urbani vanno, cioè, a spese tipo 30 volte la media. Il record ce l'ha in questo caso un comune del nord, il comune di Grezzago milanese, 30 volte il costo standard, e poi Borgo Vercelli 26 volte il costo standard. Ma io vorrei sapere una cosa, ma i vigili di Grezzano e di Borgo Vercelli perché guadagnano 26 volte in un caso e 30 volte nell'altro? Io immagino il traffico a Grezzano, capirai, no? La gestione a Borgo Vercelli dei bambini che escono dalle scuole, ma insomma 26 volte, e quindi attenzione, perché il federalismo non è che vuol dire che il nord si mette a fare come la regione Sicilia, con nessun rispetto per la regione Sicilia, che è un vero e proprio colabrodo e andrebbe commissariata, se ne faccia una ragione anche il governatore Lombardo. Andiamo a Bruxelles, che torniamo a parlare di buone notizie, se no mi sto già irritando. Thank you. Allora, dicevamo, buone notizie da Bruxelles, dove c'è il nostro Sergio Nava, inviato da questa mattina all'Alba, che è in collegamento. Sergio, buonasera. Buonasera. Allora, Van Rompuy, ascoltiamo la prima voce non italiana, poi abbiamo molte dichiarazioni di Mario Monti. Van Rompuy, che come commento quasi politico, anzi politico, tout court, dice: non ci sono né vincitori né vinti, ma ha vinto l'Europa. We are not entering into that game, because this is always based on perceptions. Non voglio entrare in questi giochetti, perché sono sempre basati su percezioni. Abbiamo invece ben chiaro cosa è stato raggiunto. Sono stati negoziati molto difficili, durati anche molte ore, e non si possono sintetizzare con la semplice formula vincenti o perdenti. Voglio sottolineare che abbiamo un obiettivo comune, una missione comune, ossia di stabilizzare la zona euro. Per fare ciò dobbiamo dare sostegno ai paesi che sono sotto la pressione dei mercati, ma questi paesi devono comportarsi bene, perché gli aiuti sono sempre legati a delle condizioni, delle severe condizioni. It is always under conditionality, even under strict conditionality. Allora Sergio, adesso ragioniamo sull'Europa. Vedo molti messaggi sui costi dei vigili urbani. Attenzione, è vero che abbiamo dato sia il costo standard che il costo dei vigili urbani, e ci sono dentro anche i costi per gli autovelox, ma non cambia di un niente il ragionamento. Cioè, se c'è un costo standard, non si capisce che è la media, perché alcuni comuni costino 30 volte di più, va bene? Anche se dentro infiliamo la parte degli autovelox, sì, non vengono contabilizzati come altre spese, scrive qualcuno. C'è sempre, sapete come sono le scuse? Qualcuno conosce il detto? Il tecnico mi guarda strano, non posso dirlo se mi fascia protetta. Vabbè, Sergio Nava, partiamo dallo scudo anti-spread. Adesso il 9 luglio verrà tutto perfezionato, ma cerchiamo anche di raccontare lo scudo poi è arrivato ieri in nottata, ma vale la pena raccontarlo anche adesso. Che cosa prevede lo scudo? È sostanzialmente l'acquisto anche dei titoli di Stato di un paese sotto attacco al fine di ridurre lo spread. Cioè, se vengono acquistati i BOT, i BTP, i bonus di quel paese, è chiaro che più richiesta c'è, più si abbassa il rendimento, no, nella vita. Per cui dovresti riuscire a calmierare la differenza con i rendimenti tedeschi. Sergio. Sì, lo scopo è esattamente questo, in sé è un meccanismo anche abbastanza semplice, cioè si dà mandato al fondo salva stati prima e poi al meccanismo di stabilità quando entrerà in vigore, utilizzando, ecco, l'agente di acquisto è la BCE, affinché le operazioni di mercato, così recitano le conclusioni, vengano poi svolte in modo effettivo ed efficace, si dà mandato di acquistare i bond, i bonus, insomma tutti quei titoli di Stato dei paesi sotto attacco speculativo, ma attenzione, la precondizione è che quei paesi siano tra virgolette virtuosi, cioè abbiano effettivamente poi obbedito a tutte le indicazioni emanate da Bruxelles per quanto riguarda il taglio del deficit, il pareggio dei conti, eccetera, eccetera, cioè occorre avere come precondizione questa. C'era il grande interrogativo, la grande paura della Troica, la Merkel l'ha accennata. Sì, chiariamo cos'è la paura della Troica, cioè la paura che di fatto sia commissariati. Quello che è successo alla Grecia, cioè la Grecia non, esatto, ha più una gestione economica, allora è chiaro che i paesi non volevano, Spagna in primis, perdere, diciamo, qualunque sovranità economica nel caso venissero aiutati, e la Troica, su questo c'è una dichiarazione anche molto, molto precisa della stessa Angela Merkel, della Troica non ci sarà, cioè non vorrà dire che un paese perde la sua sovranità se viene aiutato. E lo ha confermato anche il Premier Mario Monti, sì. Lo ha confermato anche il Vice Ministro dell'Economia Grilli. Grilli anzi ha precisato che ci saranno dei controlli, tra virgolette, a geometria variabile, Commissione, Eurogruppo, ma comunque non è previsto l'intervento dell'FMI. Quindi di conseguenza si verificherà che questi paesi rispettino degli impegni presi con l'Europa. Dopo dopodiché si firma un memorandum d'intesa, eccetera. Non, ecco, la cosa molto importante, parlando di questo scudo, è che non è stata prevista alcuna automaticità, e l'ha spiegato anche Monti. Ecco, perché era circolata l'ipotesi che potesse partire quasi in automatico se lo spread superava un certo limite, 250-300 punti. Questo mi sembra che sia caduto, però, come è caduto anche perché si dà un obiettivo, un mirino agli speculatori, cioè se lo speculatore sa che è arrivato al 5%, 6%, 7%, parte lo scudo, a quel punto comincia a scommettere contro quel paese, e Monti stesso l'ha fatto capire chiaramente in conferenza stampa. Sì, ascoltiamo allora Monti, non tanto, aspettiamo un attimo il tema della crescita, sulla non esistenza di una troica, e quindi che praticamente il paese che riceverà questo aiuto, cioè avrà la Banca Centrale Europea che comprerà i suoi titoli di Stato e come garanzia per conto del Fondo Salva Stati della ISM, non verrà in automatico commissariato, anche perché, come spiegavi tu Sergio, questo aiuto potrà venire solo ai paesi che hanno fatto i compiti a casa, cioè che hanno iniziato a tagliare deficit, spesa pubblica e portare in bilancio i conti, cioè non lo può fare un paese che non sta facendo le misure. Comunque Monti sull'assenza della troica. È stato previsto che il fondo salva stati, o ecco che in questo caso non è bene chiamare con la sua denominazione, che presto diventerà meccanismo di stabilità più che salva stati, potrà intervenire per stabilizzare i mercati. Ci sarà tecnicamente un memorandum of understanding, la banca centrale agirà come agente del meccanismo nello svolgere le operazioni di mercato. È stato chiarito il piccolo equivoco: non c'è la troica nelle procedure, e quindi Commissione, Banca Centrale Europea, Fondo Monetario Internazionale, no, non c'è la troica nelle procedure previste per ISM, IFSF, e quindi non c'è quella pesantezza di precarietà e di cessione della sovranità. Ci sarà l'applicazione di un memorandum of understanding. Quindi nessun commissariamento, però i paesi devono fare i compiti. Tra l'altro, insomma, la borsa ha iper festeggiato. Vi do la chiusura: più 6,40%, Milano Unicredit più 14, Intesa più 12, Banco Popolare più 11. Mamma mia, bellissimo, di più 10,5% l'Emilia Romagna, più 9,5% la Pop Milano. Anche Parigi ha chiuso bene, più 4,50, benissimo. Francoforte, idem, più 4,20. E Londra, che non c'entrava niente in questo meccanismo, più 1,80%. E l'euro di nuovo vicino a quota 1,27. Sergio Nava, dopo il meteo affronteremo l'altro capitolo grosso di questo vertice, perché la Germania non ha perso, cioè ha perso solo sul campo di calcio, questo va detto, però ha accettato da un lato un meccanismo salva anti-spread, quindi salva stati, dall'altro ha accettato anche di mettere al centro il tema della crescita, un pacchetto di misure per 120 miliardi. Prima di parlare di questo, cioè dopo il metodo, vorrei però farvi ascoltare il commento di Mario Monti su Angela Merkel, perché è chiaro a tutti che non bisognava umiliare la Germania, se mi passa del termine, in questo, altrimenti Angela Merkel avrebbe avuto un grosso problema elettorale al suo interno. Mario Monti, il giudizio sulla signora Merkel. Con la cancelliera, che ovviamente è stata una protagonista di questo scambio e dibattito, sempre con spirito costruttivo e anche sportivo, devo dire, lei ha comprensione per l'impegno e le difficoltà che incontriamo in Italia, noi abbiamo comprensione per le difficoltà, speriamo che le superi brillantemente, che deve sempre affrontare nel Parlamento tedesco. Con la signora Merkel, che rivedremo a Roma il 4 luglio, insomma c'è un ottimo rapporto, come c'era prima. E poi nella seconda ora del programma ci occuperemo anche del ruolo di Mario Monti, e ascolteremo un ex banchiere come Rainer Masera dare un giudizio su questo accordo. Intanto meteo, pubblicità, poi il secondo asse di questo vertice, Sergio, e quindi il pacchetto per la crescita, dice Mario Monti, vale 120 miliardi di euro. Cercheremo di capire da dove arriveranno questi soldi. 349-238-6666 per i vostri sms. di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Sergio Nava, l'altro grande fronte, poi devo rispondere anche su Crosta, il mitico dipendente della regione Sicilia, che ha percepito 1400 euro al giorno per aver lavorato qualche mese. Anzi, rispondo subito, ha detto che non verrà fino all'11 quando c'è la sentenza, poi dovrebbe essere ospite di Alessandro Milan. Auguri. Auguri agli ascoltatori. Io vorrei capire come fa a giustificarsi uno così, ma tanto in Italia ci si giustifica su tutto. Sergio, veniamo ai mari seri, Mario Draghi, Mario Monti e anche Mario Balotelli, così le butto un po'. Mario Monti ha rivendicato 120 miliardi di piano europeo, ma da dove arrivano questi soldi? Ma allora, innanzitutto bisogna ricordare che questi 120 miliardi di fatto erano già stati concordati una settimana fa a Roma, nel famoso vertice quadrilaterale. Non sono in realtà soldi così nuovi, se si va a vedere, perché abbiamo 10 miliardi di aumento di capitale della Banca Europea degli Investimenti, che porta poi la capacità di prestito a 60 miliardi, che a sua volta dovrebbe stuzzicare, insomma, stimolare altri 180 miliardi di investimenti addizionali. Poi abbiamo una prima fase pilota dei project bonds nei settori dei trasporti, energia e anche banda larga. Qui parliamo di 4,5 miliardi di euro, e forse sono veramente i miliardi un po' più freschi che abbiamo, perché poi abbiamo altri 55 miliardi di riallocazione dei fondi strutturali. Lo sappiamo bene, i fondi strutturali sono una grande risorsa europea, ma spesso non vengono spesi o vengono spesi male. Allora gli stati europei dicono: li riallochiamo in modo da concentrarli sui settori del futuro. Abbiamo quindi ricerca, innovazione, piccole e medie imprese, occupazione dei giovani, eccetera. Quindi il piano c'è, non sono soldi completamente nuovi. Monti ha detto che occorre dare un impulso alle politiche per la crescita, ha rivendicato che a gennaio con la Gran Bretagna e altri paesi solleticò per primo il tema, portò per primo il tema nell'arena dopo che la Germania aveva ottenuto il fiscal compact, però insomma non è un piano mastodontico, un piano completamente nuovo, un piano rivoluzionario. Si riallocano molti soldi e si mette qualche denaro in più. Allora, sentiamo Monti sui 120 miliardi che sbloccherebbe questo piano. Hai fatto bene a ricordare che c'è anche un principio di project bonds. Cosa sono? Sono obbligazioni, cioè titoli di Stato che vengono emessi per finanziare progetti specifici, e dovrebbero essere emessi a livello europeo. È il modo, in cui si cercherebbe di finanziare i progetti infrastrutturali europei. Anche su questo la Germania ha aperto. Diciamo che la Germania non ha aperto solo sugli eurobond in senso stretto, Sergio, cioè sulla possibilità che il debito diventi europeo. E quindi possiamo dire che è stato un 3-1, nel senso che l'1 per la Germania è il fatto che sugli eurobond non si è mossa, il 3 secondo me era rappresentato dal fondo salva stati con anti-spread, e quindi la possibilità che la banca centrale possa acquistare bot e garantisca soprattutto le eventuali perdite, lo sblocco del piano di crescita da 120 miliardi e questo, ipotesi di project bonds. Sentiamo Monti sui 120 miliardi. In questi due giorni l'Unione Europea ha fatto importanti passi avanti, e ha fatto importanti passi avanti in un modo e con una visione che corrispondono molto a quelli che in particolare l'Italia sostiene. Si è adottato un patto per la crescita e l'occupazione, il Compact for Growth and Jobs, che contiene una serie di importanti misure coordinate sia a livello europeo che a livello nazionale. Questo è un risultato veramente importante per l'Europa, perché se noi torniamo con la mente solo a qualche mese fa, d'inizio di marzo, quando abbiamo firmato il Fiscal Compact, bene, allora, pur esprimendo soddisfazione per quella che era la chiusura, il culmine, il punto di coronamento del capitolo della disciplina fiscale e di bilancio, avevamo osservato, particolarmente da parte italiana, che sarebbe stato altrettanto necessario dare impulso alle politiche per la crescita, senza le quali anche la disciplina fiscale sarebbe diventata difficilmente sostenibile. Il pacchetto che abbiamo adottato tra ieri e oggi comporta impegni per un valore globale di 120 miliardi di euro, l'1% del PIL dell'Unione. Così il premier Mario Monti, che fatica ragazzi, fa anche caldo. Allora c'è chi dice: ma abbiate un minimo di coraggio, non c'è niente, è tutta fuffa. Allora non si può sempre vedere il bicchiere mezzo vuoto. Una settimana fa e anche 4 giorni fa, quanti avrebbero scommesso che sarebbe partito il meccanismo dello scudo antispread? Mario Monti ha detto per ora l'Italia non lo userà, ma non escludo nel futuro, anche perché noi stiamo facendo i compiti, quindi potremmo tranquillamente utilizzarlo. Chi avrebbe scommesso che la Banca Centrale Europea avrebbe acquistato i titoli dei vari paesi pur per conto del Fondo Salva Stati, cioè con un ruolo più attivo? Chi avrebbe scommesso in un patto per la crescita? Insomma, dai, non si può, se no vi beccate un gufo, però gli ascoltatori in questo caso. Sergio Nava, mi sembra che tra l'altro tutti abbiano voluto ricordare, e mi riferisco a Hollande, a François Hollande, Angela Merkel, Mario Monti, Rajoy, il premier spagnolo, che c'è stato un accordo, cioè che non ci sono, come a ricomporre le tensioni della vigilia. E tra l'altro aggiungo anche questa cosa, io sono d'accordo con quello che hai appena detto, cioè sul fatto che alla fine i progressi sono stati fatti, magari non solo sul lungo periodo, però si è tamponata una falla importante. E la cosa interessante, c'è un editoriale sullo Spiegel Online che alla fine ricostruisce forse quella che può essere anche un po' la versione reale di quello che è accaduto in questi 2 giorni, cioè di fatto la Germania ha ceduto sui punti dove poteva cedere, sui punti dove poteva perdere di meno. È vero che ha fatto resistenza, perché comunque Monti alla fine ha forzato la mano, l'ha detto anche oggi lui in conferenza stampa, ha messo in agenda dei punti che sono poi i risultati che ha portato a casa, che non erano ufficialmente in agenda, quindi diciamo che Berlino non ha ceduto in modo totalmente volontario, però ha ceduto dove poteva in qualche modo dare terreno, dare margine agli altri paesi europei. E quindi di fatto è vero, l'Italia è sicuramente la vincitrice, ha portato comunque a casa un grande risultato, però parlare poi di vinti, alla fine ha fatto progressi l'Europa, su questo sono d'accordo, e bisogna guardare in questo caso all'interesse comune, all'interesse anche dell'Eurozona. E se posso permettermi una critica ai colleghi, visto che critichiamo tutti, male hanno fatto oggi 2 quotidiani, uno dei quali dell'ex Presidente del Consiglio, a titolare in maniera molto offensiva nei confronti di Angela Merkel. Non scendiamo, è vero che lo fanno anche i settimanali tedeschi che ci sfottono i greci, però voglio dire, che senso ha quando vinci stravincere? Anche perché, voglio dire, la linea che ha tenuto quel quotidiano, abbiate pazienza, è stata una linea fallimentare a livello europeo, no? E grazie a quella linea lì, all'appoggio incondizionato a una certa linea, che siamo arrivati con lo spread a 5,70, un po' di memoria storica anche a noi colleghi, su, per favore. Che senso ha essere volgarmente offensivi nei confronti di Angela Merkel riproponendo una definizione assolutamente volgare e offensiva che fu intercettata dall'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi? Mi sembra una follia, un modo per non dialogare. Adesso non ce la tiriamo troppo, abbiamo ottenuto delle cose importanti grazie a Mario Monti, non al Presidente del Consiglio precedente, grazie a Mario Monti. E almeno non esageriamo, no? Anche perché noi i compiti dobbiamo continuare a farli, perché la regione Sicilia di cui parlavamo prima è un caso, ce ne sono altre. C'è chi le vorrebbe commissariare, ogni volta che si commissaria una ASL nel sud Italia i conti si riducono a un decimo, lo sapete questo, Reggio Calabria, Crotone, Palermo, ma forse oltre che accorpare le province anche commissariare chi non sa gestire i conti. Grazie Sergio Nava da Bruxelles. Il traffico, la borsa e poi la giornata di Mario Monti e anche l'analisi di Rainer Masera su questo accordo, se veramente, oltre che per questa giornata, farà respirare i gruppi bancari. 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta, era veramente tempo che non commentavamo una giornata di borsa così, ossia incommentabile ma in positivo, e tutto è cresciuto a livelli fortissimi. Complimenti a chi ha comprato sui rumors e andrà a vendere sulle notizie, come si dice in gergo. Più 6,40% la borsa di Milano. Adesso andiamo a controllare da quanto è che la borsa non cresceva così tanto. A 14.251 punti, Parigi più 4,70, Francoforte più 4,30, Londra invece più 1,40, ma appunto non fa parte dell'euro. Euro 1,26,74, la borsa. Unicredit più 14,26% a 3 euro per azione. Intesa San Paolo più 11,60, Banco Popolare più 11,30, Popolare Emilia Romagna più 10,5, Pop Milano più 9,5, Mediolanum più 8,90, Mediobanca più 8,5, Atlantia più 8,40, UbiBanca più 8,30, Azimut più 7,60, qui parte il gallo, Prismian più 7,40%, Fiat Industria più 7%, Finmeccanica più 6,90, Saipem più 6,90, Pirelli più 6,5, Exor più 6,1 come Monte dei Paschi, Mediaset più 5,70, Buzzi Unice più 5,5 come Generali e Fiat, e anche Enel Green Power, Telecom più 5,30, Ferragamo più 5 come Steamicroelectronics e Tod's e Tenaris, Enel più 4,80, A2A più 4,60 come Eni, Autogrill più 4,5 come Terna. Chiudiamo con Parmalat più 3,20 come Campari, 2,70% rialzo di Snam e di Luxottica, di Assorin più 2,5 come l'Automatica, in pregilo più 2, perde solo Ansaldo STS l'1,15%, poi c'è il botto di Stefanel più 17,80%, e gallo sia! Allora, c'è chi dice, no, effetto Balotelli sui mercati, no, effetto Germania, sì, ma la Germania che, ripeto, usando un linguaggio calcistico, ha perso 3-1, c'è chi dice, bravo Monti, hai salvato le banche, no, guardate che quando qualcuno salva le banche, piantiamola con questa cosa, salve i risparmi degli italiani in queste banche, o volete la fuga di capitali come in Grecia, ma di che cosa state parlando? Ogni tanto gli ascoltatori... Vabbè, sono tutti da rispettare, però io vorrei capire, nel momento in cui la borsa sale così e le banche si spera vengano salvate, uno dovrebbe essere contento, o non ce l'ha lei il conto corrente? O l'ha già portato in Svizzera forse? O l'ha scudato prima? Vabbè, dai, Paolo Paronetto, buonasera. Buonasera a tutti. Che dire, insomma, il vertice europeo l'abbiamo appena letti gli esiti. Su Mediaset lunedì c'è la presentazione dei palinsesti. Sì. Su Atlantia c'è una notizia che riguarda le autostrade sudamericane. Esattamente, Mediaset ha guadagnato il 5,75% nonostante un report diciamo dubbioso di Citi, che secondo la quale il titolo non è ancora da comprare, però gli investitori diciamo che non hanno ascoltato il consiglio. Il titolo ha generato molto bene recuperando terreno dopo cali recenti. Lunedì appunto la presentazione dei palinsesti, che sarà un'occasione che metterà il titolo sotto i riflettori. Per quanto riguarda Atlantia c'è questo diciamo riassetto nel Sud America, il titolo ha esercitato gli accordi. La società ha esercitato gli accordi per salire al 100% di autostrade Sud America e ha siglato un'intesa con un fondo pensione canadese a cui venderà il 49,99% di una controllata di autostrade Sud America. Questo è stato apprezzato dal mercato, il titolo è salito molto. Per quanto riguarda l'intera borsa, ti dico soltanto che la borsa è salita ai massimi dal 7 maggio e quella di oggi è la 12ª migliore prestazione per quanto riguarda il paniere principale dal 98, cioè dall'anno della privatizzazione della borsa. Ah, la 12ª migliore in assoluto da quando esiste la borsa privata, cioè dal 98. Esattamente. E però, vabbè, molto aveva perso, qualcuno scrive lunedì, probabilmente arriveranno i realizzi, cioè le vendite, beh, ci stanno anche, quando tu compri un titolo e ci guadagni, abbiate pazienza, il 10% in un giorno, può essere che tu lo vada a vendere, il 14% di Unicredit che riporta il titolo a 3 euro... Però insomma, intanto vediamo se anche lunedì, pur con alcune vendite che potrebbero esserci, restiamo sopra i livelli di giovedì e di mercoledì e di martedì. Già mi basterebbe quello. Telecom e Telecom Italia Media, abbiamo 30 secondi in una battuta. sono arrivate, secondo le iscrizioni, 15 manifestazioni di interesse per la 7, quindi il titolo si è mosso anche su questo, sia Telecom Italia che Telecom Italia Media hanno guadagnato terreno. Grazie, grazie Paolo Pronetto e buon fine settimana a te e ai colleghi di Radio Coro, il Sole 24 Ore. Il GR, poi torniamo a parlare della giornata cruciale, come anche i mercati hanno registrato, per il futuro dell'euro dell'Europa. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per tornare a commentare, usando anche altre letture interpretative, quello che è successo ieri notte e oggi in Europa. Ripeto, non mi sembra che qua si ecceda in ottimismo, in va tutto bene madama la marchesa, però se oggi la borsa fa il 12° rialzo più forte da quando esiste, da quando è privatizzata, dal 98 più 6,40%, i titoli bancari fanno più 15 Unicredito, più 12 Intesa, più 11 Banca Popolare, più 10 l'Emilia Romagna, più 9,5 la Pop Milano, insomma UbiBanca più 8,30, anche Monte dei Paschi sale non poco, è una boccata d'ossigeno anche per i titoli industriali, non è che si può sempre dire adesso vedrete arriverà il peggio. Vedremo intanto la reazione dei mercati anche sugli spread, che restano alti ma sono scesi 30 punti in meno, ha fatto il nostro 420, aveva fatto 410, poi 450, poi 420. Vorrei ascoltare e ricollegarmi con Bruxelles e anzi tornare sui temi di Bruxelles, ma con un'ottica più legata al ruolo di Mario Monti, che tutti, devo dire, hanno definito, anche la stampa estera, cruciale. Anche noi in passato che una politica convincente per la crescita avrebbe anche probabilmente contribuito ad alleviare i problemi degli spread, perché avrebbe dato una più concreta prospettiva di crescita e quindi di riequilibrio della finanza pubblica, però con le tensioni attuali ci sembrava un po' poco. Allora abbiamo contribuito a forzare la considerazione nell'agenda dei lavori di queste misure, e è stato nel corso della lunga serata, seduta notturna, prodotto un testo che ci sembra molto concreto dai capi di governo dell'Eurozona, con decisioni su interventi di breve termine, e poco fa, in chiusura del Consiglio europeo a 27, il Consiglio europeo a 27 ha preso atto e ha salutato questo insieme di decisioni dell'Eurozona a livello dei capi di governo, che sarà tradotto in meccanismi operativi dall'Eurogruppo che si terrà il 9 luglio. Noi siamo venuti qui per cercare di contribuire alla costruzione dell'Europa e all'affermazione dell'Italia nella costruzione dell'Europa, e anche alla messa in opera in Europa a cose che interessano all'Italia. Non siamo venuti qui per rafforzare il governo, se ne viene un rafforzamento del governo oltre che i risultati principali non possiamo che esserne lieti. Non abbiamo mai preventivato, potrebbe naturalmente accadere, ma non abbiamo mai preventivato di agire su un orizzonte più breve di quello che si conclude con le elezioni della primavera prossima. Il nostro obiettivo è quello di fare il maggior numero di cose utili per l'economia e la società italiana in questo breve periodo. Eh sì, un Mario Monti Mission Impossible non se la prende il Presidente del Consiglio se l'abbiamo paragonato a Tom Cruise, ma insomma ci sembrava la definizione migliore. Ce l'ha fatta per quello che vediamo, con l'aria che tira, con i chiari di luna a cui assistiamo, come dicono in Lombardia, piuttosto che niente, meglio piuttosto. E allora, Gerardo Pelosi in collegamento da Bruxelles, buonasera. Buon pomeriggio a voi. Allora, Mission Impossible, in realtà Mission Possible, la Germania ha ceduto sullo scudo antispread, quindi la Banca Centrale Europea potrà comprare dai paesi che fanno i compiti a casa, che mettono in ordine i conti, potrà comprare per conto del Fondo Salva Stati titoli di Stato di quei paesi, in modo da ridurre lo spread, da un lato, dall'altro qualche tentativo di project bond, cioè di debiti emessi a livello europeo per finanziare investimenti infrastrutturali, terzo aspetto i 120 miliardi già arrivati dal vertice di Roma, confermati come politica della crescita. Quando è stato, Gerardo, il momento in cui si è avuta la svolta? Questa notte l'abbiamo capito, ma insomma, com'è arrivata questa svolta? Tutti abbiamo letto e detto che Monti ha battuto i pugni, ma... Il ministro Moavero, che ho sentito poco fa, mi ha detto che loro sono rimasti chiusi tutta la notte e soltanto quando sono usciti dalla sala della riunione hanno visto che albeggiava, hanno guardato l'orologio e hanno capito che l'accordo era stato fatto praticamente alle 5. Ma dopo una nottata di stop and go in cui la cena di lavoro che doveva iniziare alle 7:15 è cominciata soltanto alle 10:30, cioè quindi a partita già conclusa, c'è stato un attimo anche di distensione, la Merkel ha detto a Monti avete proprio complimenti, avete proprio meritato di vincere. Ma si riferiva al vertice o alla partita? Sulla partita ovviamente. E Monti sarà tra l'altro domenica a Kiev, e a chi gli ha chiesto oggi in conferenza stampa se non ha qualche problema a essere presente in Ucraina, dove c'è un problema con la Timoshenko che è in carcere, eccetera, ha detto beh, ci sarebbe andata anche la Merkel, quindi non vedo perché non ci dovrei andare io per sostenere gli azzurri. Magari può andare in Ucraina e dire una parola per la Timoshenko, che è una vicenda scandalosa e allucinante. No, io essendo scaramantico vorrei che Monti stesse a Bruxelles anche domenica, chiuso fino alle 5 in un altro vertice, però non si può avere tutto. Bisognerebbe fare un vertice ad hoc. Però volevo dirti questo. Dimmi. Al di là degli aspetti tecnici, poi qui c'è il collega Pesolo vicino a me, Alessandro Merli, che se vuoi poi ti passerò. C'è in queste circostanze, come tante volte in Europa, è il festival del grigio, non ci sono colori netti, non c'è il nero, non c'è il bianco, il grigio perché in realtà questi accordi devono consentire a tutti una via d'uscita, Merkel di volare adesso a Berlino, di partecipare al voto del Bundestag sul Fiscal Compact e di poter dire che in realtà nel meccanismo per i paesi a rischio non cambia nulla rispetto alle procedure attuali. Vittoria di Monti sicuramente, dell'Italia e della Spagna che possono ritornare nei loro parlamenti e dire di avere, come hanno fatto effettivamente, battuto i pugni sul tavolo, fatto valere la riserva, la minaccia di veto per poi ottenere che il 9 luglio, ma soltanto il 9 luglio, si metta nero su bianco e si formalizzi un accordo. Per ora i tre punti importanti sono la rimozione di status di creditore privilegiato da parte dell'ESM, cioè lo European Stability Mechanism, che prenderà poi il posto da luglio del Fondo Salva Stati Provvisorio, un avvio di un processo di integrazione che porterà all'unione bancaria e la possibilità per il Fondo Salva Stati di intervenire direttamente per ricapitalizzare le banche, molto importante per la Spagna e per l'Irlanda. Oltre a questo, le misure a breve termine, quelle misure che anche la Francia ha giudicato molto importanti, per cercare, come dire, di consentire al Fondo Salva Stati, alla FSS, di agire in modo efficace comprando titoli sovrani dei paesi cosiddetti adempienti, cioè paesi che comunque rispettano le regole. E quindi tu ricordavi giustamente l'avvio di una vigilanza unica sulle banche europee, la possibilità per il Fondo Salva Stati di entrare direttamente nel capitale e poi il cosiddetto scudo antispread, che obiettivamente poi vedremo i meccanismi, non c'è un automatismo sullo spread, inizialmente sembrava che superato un certo livello di spread in un paese che sta facendo i compiti potesse in automatico scattare questo, mi sembra che questo sia invece caduto come ipotesi, ma c'è un'idea di una banca centrale europea che interviene di più. Ed ecco perché la borsa festeggia con rialzi del 10, 12, 14% per Unicredit, 12% per Intesa e via così. Ti saresti aspettato questo risultato? Italia pensasse a un tetto oltre il quale far scattare questo meccanismo 250 o 300 non lo renderebbe certamente noto, proprio per non influenzare i mercati in questo modo. No, ma dicevo, ti saresti aspettato questo risultato alla vigilia? L'Europa e la ritualità dei negoziati europei ci ha insegnato in tutti questi anni che qualcosa andava fatto, qualcosa che potesse essere venduto da ognuno come un successo, un parziale successo e da nessuno subito come una sconfitta. Quindi sicuramente qualche cosa ci si aspettava, forse non così consistente, non così positivo per l'Italia, che ricordiamolo è stato il primo paese dopo l'approvazione del Fiscal Compact mesi fa, nel marzo di scorso, di cercare di approfondire l'aspetto anche della crescita e dello sviluppo insieme alla disciplina di bilancio. È stato questo il tema sul quale si è creato un'alleanza molto forte con la Spagna e anche con il nuovo presidente francese Hollande, che è stato sicuramente determinante a questo fine. Allora, io non sono d'accordo, lo dico chiaramente, con chi scrive è aria fritta, l'illusione durerà poco. Secondo me invece, viste le premesse, visto da dove arrivavamo, insomma, c'è stato, e nei fatti e nella borsa e nella reazione del mercato, un ammorbidimento tedesco. Gerardo Pelosi, saluti i miei colleghi Dino Peso e Alessandro Merli che sono lì accanto a te, e grazie all'inviato del Sole 24 Ore a Bruxelles. Non male, c'è chi scrive: d'ora in avanti, dopo Draghi, Monti e Balotelli, se la Merkel incontra un altro Mario, scappa. Professor Rainer Masera, buonasera. Buonasera. Lei, per chi non lo sapesse, è stato ministro del bilancio nel governo Dini, ha ricoperto anche le cariche di direttore centrale della Banca d'Italia, presidente del gruppo San Paolo IMI ed è membro anche del board della Banca Europea degli Investimenti. Vorrei un suo commento dopo il traffico, ancora un minuto, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta per l'ultima parte di Focus Economia. Dunque, professor Masera, lei appunto ex ministro del bilancio del governo Dini, direttore centrale della Banca d'Italia, presidente di un gruppo bancario importante come era San Paolo IMI, mi dà un commento, aria fritta, oppure al di là di tutti i vari distinguo del fatto che non si possa dire che qualcuno ha perso, qualcuno ha vinto, un passo culturale oltre che politico è stato fatto? Ma io sarei senz'altro su questa seconda ipotesi. Il rischio di un fallimento era rilevante e mi sembra ci sono due principi che sono stati affermati per la prima volta. L'unione monetaria richiede l'unione fiscale non ci può essere immediatamente, ma la Banca Centrale Europea si dimostra disponibile ed è quindi possibile pensare che il Fondo Salva Stati ottenga liquidità di base dalla Banca Centrale. Quindi questo è un punto fondamentale e per questo i mercati evidentemente sottolineano l'importanza dell'accordo raggiunto. Il nesso fra rischio bancario e rischio paese è ben evidente, lo si può rompere con gli interventi che sono stati preordinati se appunto la banca centrale finanzia, e questo non è più posto in discussione. Altro punto fondamentale è che la signora Merkel continuava a lavorare nell'ipotesi che da soli tagli di spesa, aumenti delle entrate e riforme strutturali avrebbero molto rapidamente portato alla crescita. Così non è, è un errore clamoroso che è stato fatto e purtroppo ne vediamo. Cioè, con tagli e tasse non si cresce. Con tagli e tasse no, spinti in tutti i paesi europei simultaneamente in tempi strettissimi non si cresce. In più abbiamo il problema di Basilea 3, cioè degli aumenti di capitale delle banche che anche dovrebbero essere fatti tutti simultaneamente e anche questo impedisce la crescita. Quindi il fondo che tramite la BEI, tramite i project bond, consentirà di finanziare dei progetti di sviluppo, a mio avviso è altrettanto importante, non solo in termini quantitativi ma in termini di principio. Si è riconosciuto che occorre, proprio per consentire il risanamento fiscale, occorre avere una certa gradualità nei processi che invece sin qui non si manifestava. Allora, lei dice quindi, da un lato si è spezzato questo meccanismo per cui la banca di un paese a rischio, avendo i titoli di Stato di quel paese, Spagna, Portogallo, forse anche l'Italia, veniva massacrata in borsa. A questo punto tu riesci, da un lato con il fondo ISM, a entrare direttamente nel capitale della banca, dall'altro con il meccanismo anti-spread, se il paese in questione sta facendo i compiti, puoi acquistare i suoi titoli di Stato con la BCE per conto del fondo salva stati e quindi calmierare, ridurre lo spread, e poi i project bond. E quindi a mio avviso è importante anche il fatto che si sia andati verso è tutto da definire nel dettaglio, però insomma un'accelerazione su un'unione bancaria e la sorveglianza unica sugli istituti affidati alla Banca Centrale Europea, cioè noi dobbiamo arrivare a delle banche, una BCE che lavora come le altre banche europee. Mi dice una cosa che non le piace? O che l'ha delusa? No, io credo adesso the devil is in detail, il dettaglio sarà molto importante e il rispetto di questi principi. Mi sembra che si va nella direzione giusta. C'è un punto forse che occorre sottolineare, che la vigilanza bancaria europea occorre sia fatta non soltanto quando le banche entrano in difficoltà, ma sia fatta sin dall'inizio in termini molto rapidi, cioè occorre intervenire per favorire ricapitalizzazione o altre misure di risanamento delle banche prima che si arrivi a condizioni in base alle quali poi diventano necessari, certo, gli interventi dello Stato. Allora, questo gli Stati Uniti l'hanno fatto due anni fa, il ratto della Rosier l'aveva indicato, occorre porlo in essere in tempi molto brevi. Un'ultima domanda che riguarda un altro tema, però prima devo dare una risposta agli ascoltatori. Che cosa cambia per noi cittadini, chiedono molti? Beh, attenzione, se per esempio attraverso queste nuove garanzie e possibilità di intervento arriveremo a spread più bassi, vuol dire che l'imprenditore che va in banca non avrà più il 7-8% di tasso di interesse praticato, perché lo spread poi influisce anche sui prestiti che le banche concedono, ammesso non concesso che li concedano. Vuol dire che il debito pubblico italiano non aumenterà oltre un livello di controllo e quindi magari alcune manovre, non dico sull'IVA ma su altro, potrebbero non essere fatte. Cioè tutto questo poi una ricaduta ce l'ha nel momento in cui tranquillizziamo i mercati, i titoli, l'andamento dello spread, il rendimento che noi dobbiamo offrire per trovare compratori, l'andamento del deficit e quant'altro. Però mi dica una cosa, professor Masera, visto che lei conosce molto bene il mondo bancario, sia dalla Banca d'Italia sia come presidente di una banca. Mentre noi stiamo facendo questi sforzi, le banche d'affari tornano a fare esattamente quello che facevano prima. JP Morgan si scopre che il buco che hanno creato con i derivati non è più da 2 miliardi ma da 9 miliardi. In Gran Bretagna c'è il Premier Cameron furibondo con Barclays e Royal Bank of Scotland perché hanno truccato i tassi di interesse, e Royal Bank of Scotland è per l'82% dei contribuenti britannici, nazionalizzata, e si è beccata una multa da 290 milioni Barclays e 150 milioni di sterline Royal Bank of Scotland. Ma è possibile che mentre noi soffriamo, cerchiamo di salvare la baracca, certi geni del male abbiano ripreso a lavorare come prima? Ma è possibile, perché le riforme finanziarie che erano state preordinate negli Stati Uniti col Dodd-Frank Act e che erano state delineate nel rapporto della Rosier, al quale ho contribuito anch'io, non sono stati realizzati. In Europa alcuni elementi chiave non sono stati realizzati. Le dicevo, appunto, il fondo salva banche, Resolution e Recovery. Negli Stati Uniti il processo è andato avanti sotto il profilo della legge, ma poi la legislazione secondaria non è intervenuta. Il Presidente degli Stati Uniti ha detto, proprio in occasione della prima perdita di 3 miliardi di euro di JP Morgan, adesso sono diventati 9, ha detto le pressioni delle banche di investimento sono state tali che hanno impedito che il Dodd-Frank Act vada avanti. Solo punto, la Volcker Rule. La Volcker Rule è un elemento fondamentale perché consente di separare l'attività della banca di investimento rischiosa da quella della banca commerciale. nulla è stato fatto, nonostante la pressione molto forte che lo stesso Presidente degli Stati Uniti stava operando. E nulla è stato fatto in Europa. Io sono preoccupato quando vedo che perfino Barack Obama ha più facilità a fare la riforma sanitaria che a toccare i templi della finanza di Wall Street, dove il suo ministro dell'economia, ahimè, è troppo familiare, secondo me, e non riesce a far passare la regola di Paul Volcker, cioè separa le banche che raccolgono risparmi dalle banche che speculano con i derivati. Torneremo purtroppo nello stesso abisso se non, la politica non si riprende in mano il governo del mondo e del futuro del paese e lo leva a quella specie di geni in gemelli gessati che si chiamano banchieri d'affari. Grazie a Rainer Masera. E adesso vi lascio la nostra programmazione. Da Sebastiano Barisoni un ringraziamento a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana. Io vado in vacanza, il programma continuerà meglio ancora di prima, sempre più bello, lunedì dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.